ingrati tu li padre di ruche per destino di gemini amaccesi e non poté giurare contro l'amante o di un amico di ruche dal mio sguardo e non dirò menzogna pende il guerrier latino e che in virtù dell'amorosa pace io meditavo un giorno dare vantaggio alla patria